Io mi inserisco fra te e Mala. Volevo, ci mancherebbe, volentieri. Sarà una risposta più lunga. E dipende, secondo me, molto dalle modi di vedere la singolarità, che vanno da un prodotto del un sviluppo della mente umana, quindi biologica, del cervello umano, del sistema nervoso umano, a una costruzione meramente tecnica fatta da un gruppo o addirittura sviluppata autonomamente in un ambiente da definire. Anche questo, secondo me, poi va ad influire sul discorso che faceva Eva, giusto? Sì. Sulla continuità delle molecole, di quello che compone il nostro essere. Ah, certo, nel senso che alla fine comunque sia sempre di materia dovranno essere fatti, in questo senso? Beh, certo, il substrato deve essere per forza, che siano degli stati quantici o che siano esatto, quello che volevo dire. Stati neuronali, è ovvio che il nostro substrato ci deve essere. Certo che può essere effimero, può essere solo un passaggio che può cambiare, che può... Si parla di brain uploading, cioè il trasferimento della mente, del pensiero umano su substrato di silicio adesso, ma poi sarà di carbonio, sarà di quello che è. Comunque noi... Sì, confermo. Io quello che volevo dire è che magari non è umanoide, cioè potrà avere forme o comunque modi che non sono a noi noti. Ecco, sicuramente... grazie. Sicuramente in questo momento non sappiamo, non possiamo prevedere quali saranno i dettagli del substrato materiale di queste chi entità. Sta parlando adesso? Ah, Malachi. Sono Malachi. Ciao Eva. Scusami che non ti sentivo. Ecco, mi senti adesso? Ok, adesso ti sento, okay. Scusami. Perfetto, ciao. No, dicevo, ciao. In questo momento non siamo, almeno io non sono in grado di prevedere quale sarà la materia che consentirà il funzionamento delle intelligenze artificiali, cioè se per esempio saranno sistemi software che gireranno su computer più o meno simili a quelli che abbiamo oggi, o se saranno invece sistemi estremamente più raffinati, basati sulla meccanica quantistica o sulle proprietà di nuovi materiali. Quello che sicuramente mi sento in grado di dire è che per comunicare con noi queste entità avranno bisogno di una interfaccia, cioè avranno bisogno di farsi riconoscere, dovranno parlare il nostro linguaggio. E in qualche modo anche noi esseri umani dovremo avvicinarci, diciamo, entrare in un contesto in cui sia possibile la comunicazione. Ecco che questo lo dice perfettamente Ben Goertzel nel suo articolo, dove dice che le AGI incontreranno il metaverso. Ecco che come il metaverso, Second Life per esempio, potrebbe essere un punto in cui ci si incontra facilmente. Allora tu vedrai, Eva, tu un giorno vedrai, potrai incontrerai qua nel metaverso, su Vulcano, su Piramide o in qualunque altra land, incontrerai un giorno una AGI, un'intelligenza artificiale, e incomincerai a parlare con lei così come incominci a parlare con un avatar che non hai mai ecco, conosciuto. Questo? No, ma gli farai delle domande e lui ti risponderà o lei ti risponderà, e così ti apparirà con un'interfaccia che per te è nota, è familiare. Ok, e ci siamo, e su questo ci siamo. Ma quello che io stavo dicendo è questo, cioè io mi rapporterò con qualcosa che ha un passato, che proviene, che è come me frutto. Cioè, quello che si sta creando in questo periodo storico qui, ragazzi, quello che voglio sapere io è, fatemi capire se questa cosa qui viene comunque, fa parte comunque sì, di questo Eva, divenire. Sì. Scusa se ti interrompo, Eva. Cioè, la tecnologia, assolutamente. Eva, scusa. Dimmi. Nel libro di Kurzweil è spiegato con un diagramma quello che tu stai dicendo. E cioè che la tecnologia, essendo il frutto dell'intelligenza umana, se vuoi, è parte, sì, dell'evoluzione. Cioè la tecnologia è un prodotto dell'evoluzione biologica. È semplicemente... Ma voi prima non avete detto che arriverà un punto in cui, anche tu stesso l'altro giorno mi stavi facendo questa cosa qua, arriverà un punto in cui ci sarà uno stacco, quasi una separazione dall'uomo, cioè questa... Avranno la stessa memoria che abbiamo noi, memoria non in termini di ricordo di ieri o di vent'anni fa, ma questa che io chiamo la memoria delle mie molecole, capisci cosa voglio dire? Eva, c'è la stessa differenza che c'è fra l'evoluzione biologica degli organismi monocellulari e per esempio la mente umana, cioè la mente è un livello superiore di aggregazione, di complessità che nasce da un substrato biologico, e così come la tecnologia, l'intelligenza artificiale è un livello superiore di aggregazione, di complessità che nasce dalla nostra mente biologica. Cioè, quindi secondo te, secondo voi, questi sono comunque... Ok, scusa. Va bene. Cioè, ho capito. Sì. Ma nessuno sa la verità, Eva, sai, sono solo interpretazioni. La mia interpretazione è che la tecnologia è una fase dell'evoluzione dell'uomo, ma non solo dell'uomo, della vita in generale. È uno degli step, dei passi evolutivi della vita su questo pianeta.